Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You know, it's funny what a young man recollects, because I don't remember being born. I don't recall what I got for my first Christmas, and I don't know when I went on my first outdoor picnic, but I do remember the first time I heard the sweetest voice in the wide world. You can sit here if you want. All the way from Pettenweem to the rock and roll dream, all the way from East Newquay to the R&B life. Did you dream of lochs and highlands? Era da un po' di tempo che non succedeva e quindi l'ho voluta per l'inizio della seconda parte di quest'oggi, ovvero sia Aidan Moffat con The Best of Ian Rankin in the Sixth Stone. Invece la prima parte si era chiusa con una sequenza, due nomi ancora non annunciati, Arboretum e poi Junior Boys. Ma è soprattutto, e se ci fossero le telecamere in radio, anche semplicemente una webcam, a questo punto vedreste un grande sorriso sulla mia faccia, ma soprattutto è il momento di annunciare il prossimo pezzo, anzi il prossimo gruppo. Sono pochi i gruppi di cui io vado orgoglioso in un'intera stagione di Eclettica e direi che è arrivato il momento anche di aggiungere un nuovo nome nella lista di quelli della 13ª stagione. Fino ad oggi 13ª stagione voleva dire Beirut, pensando all'ukulele, al suono dell'ukulele. Ecco, se penserete al suono dell'ukulele, d'ora in poi non potrete non pensare anche a AU. Il nome è così, AU, ma non è probabilmente scritto come voi in questo momento state pensando. Ovviamente ci sono le playlist a fare da riferimento. Era nato come un progetto solista di Luke Vailand da Portland, Oregon, e quindi questo era il suo pseudonimo, ma ora è diventato un progetto a tre. A voi, per l'ascolto e per il giudizio. Thank you. Nel primo pomeriggio di una piovosa domenica di novembre, un uomo scendeva frettoloso lungo la Terza Avenue, superando fioristi ed edicole chiusi e sbarrati, le mani sprofondate in tasca e la testa china contro il vento. La strada era deserta, a eccezione di qualche taxi che, tagliando l'acqua grigia delle pozzanghere, la schizzava via in zampilli. Dietro le finestre illuminate delle case d'appartamento, la gente si stiracchiava, separava le pagine dell'edizione domenicale del Times, versava il caffè in tazze di ceramica smaltata. Ma in strada la scena era completamente diversa. Un vagabondo coperto da sacchetti di plastica fradici era raggomitolato nell'androne di un negozio. Una donna, con un cappotto marrone, si riparava la testa con un giornale e correva. Un paio di piedi piatti, coi walkie-talkie blateravano voci distorte, ascoltavano il pianto di una vecchia di fronte a un edificio smaltato di rosa. «Cosa?» si chiese l'uomo. «Cosa ci faceva lui, individuo, degno e rispettabile, con un appartamento ben riscaldato, buoni libri da leggere, una macchinetta del caffè, qui, fuori, tra questa gente, in mezzo alla strada, in una fredda mattina domenicale?» Questo era l'incipit de La lingua perduta delle gru, di David Levy. believe it if I told you. But I can run like the wind blows. From that day on, if I was going somewhere, I was running. Brasiliani Bonde d'Orole con Solto Frango e prima ancora Courtney Tidwell da Nashville con Don't Let Stars Keep Us Tangled Out, però non nella versione originale ma in quella ridefinita Ewan Pearson's Objects in Space Remix. E per introdurre invece il prossimo brano vado a estrapolare un breve pezzo da un mail ricevuto qualche giorno fa da uno degli ascoltatori di Eclettica che si sono presi causa mia la Soul Seppite. Ti comunico che il CD di Soul Seppi alla fine l'ho trovato e devo dire con molta difficoltà, comunque ne valsa la pena, un gran bel CD ed è da un po' di serate che l'ultima traccia, Enter One, mi fa da ninna nanna, naturalmente sogni stupendi. Thank you. Conobbi Stanley Flint nell'inverno del 1980, quando avevo 19 anni. Allora era in fase di stallo tra un prestigioso lavoro editoriale e l'altro, appena licenziato dalla famosa rivista, ma non ancora assunto dal famoso editore. Per guadagnarsi da vivere viaggiava da una università all'altra, offrendo il suo celebre seminario di scrittura creativa, che si teneva una sera alla settimana e durava 4 ore. Su questo seminario circolavano le voci più disparate. Si diceva che, alla fine del trimestre, Flint inducesse i suoi studenti a mettere per iscritto i loro segreti più profondi, più intimi e più sporchi, e poi li leggesse ad alta voce a uno. Questo era l'incipit di Martin Bauman, di David Levitt. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 34, volume numero 2. Indice, The Polyphonic Spree, Love Age, Joy Cat, Arboretum, Junior Boys, Aidan Moffat, A.U., Courtney Tidwell, Bonde d'Orole, Soul Seppi, Handsome First.